When you think you've had too much of this life to hang on. I done told you never to come in. Hey, you ain't Seamus McFly. You look like him, though. Especially with that dog ugly hat. You kin to that hay barber? Mi sono innamorata di Danny James quando non era di moda innamorarsi, se non di qualche causa con la C maiuscola. Erano gli anni 70 e tutti manifestavano contro la guerra in Vietnam e in giro si trovavano soltanto incensi e chiassosi e sgargianti vestiti indiani. Non dovrei farla tanto lunga, perché anch'io mi versavo addosso litri di patchouli e non mi separavo mai dalla mia copia del profeta. Grazie al cielo, col tempo si cambia. Del resto, a quante persone, ripensando al proprio passato, non vengono i brividi? Ci siamo conosciuti all'Università del New Jersey. Ci ha presentato la ragazza che poi è diventata sua moglie, Evelyn Hernes, che durante il primo anno di corso era la mia compagna di stanza. Danny era innamorato di Evelyn e io a quel tempo ero innamorata di Jim Vanderberg, perciò non è che facessi troppo caso a Danny. Jim e io eravamo convinti che ci saremmo sposati e ci saremmo arruolati nei Peace Corps per andare in qualche zona devastata dove il nostro contributo sarebbe stato disperatamente necessario e per un paio di anni saremmo andati in giro con l'aureola, campa cavallo. Alla fine io e Jim ci lasciammo, in preda a uno stadio di apatia avanzata. E 3 mesi dopo il suo matrimonio con Danny, al penultimo anno di corso, Evelyn Hernes James morì in un incidente d'auto insieme al padre e alla madre mentre tornavano a casa dopo aver assistito ad una partita di basket di Danny. Questo era ancora l'incipit di Ossi di Luna di Jonathan Carroll. Chest and the way I hold it in there. It's the taming of the heart. Eclettica, quella che state ascoltando sulle frequenze di Rock FM, è la voce di Giulio Caperdoni, quella che state sentendo in questo momento a interrompere il flusso di musica, letture e sprazzi cinematografici. Ci siamo appena ascoltati, era qualche settimana, parecchie settimane che non capitava, un estratto da Random Spirit Lover, l'ultimo album per la Jug Jaguar di Sunset Rubdown, indie rock band di Montreal, Canada, ma che poi non è nient'altro che il progetto di Spencer Krug dei Wolf Parade. Ce li siamo ascoltati quest'oggi con il pezzo dal titolo The Taming of the Hands That Came Back to Life, che ancora in Eclettica non era comparso. Prima la cover di Everybody Hurts da parte dei Bodies of Water e poi Time, Space, Repeat con i punti nel mezzo con The End of the World. Sono questi i brani che vi siete già ascoltati. Invece quello che ci stiamo per ascoltare è un progetto dal nome White Denim, non è una band, ma è uno pseudonimo, come spesso capita. Lui si chiama Bob Terry Mullard, viene dal Texas, e questa è Mess Your Hair Up. Tell me what the facts be. They beat my past me. Audacity and coming up tracks. We'll be right back. Io avevo sospeso gli studi per un semestre per partecipare alla campagna presidenziale di un candidato pacifista ed ero a Chicago quando venni a sapere dell'incidente. Non mi rimase che scrivere una lettera a Danny, dicendogli quanto fosse addolorata. Evelyn era una ragazza in gamba, in tutti i sensi, come se ne trovano poche. Dopo circa una settimana ricevetti una lunga lettera in cui Danny mi raccontava quello che stava attraversando. Io gli risposi, lui mi riscrisse e... quando tornai all'università, quell'inverno, Danny mi venne a prendere all'aeroporto di Newark con una faccia che sembrava quella di un sopravvissuto di Dachau. Mi spaventai a morte a vederlo in quello stato. Mi si risvegliò l'istinto della grande madre terra. Credetemi se vi dico che non avevo nessuna intenzione di innamorarmi di lui. Volevo solo stargli vicina, aiutarlo. E poi avevo deciso che per quel semestre non ne volevo proprio sapere di amore. Sarei stata seria, morigerata, china sui libri, inavvicinabile e avrei mangiato soltanto cibi integrali. Trascorrevamo un sacco di tempo insieme. Lui aveva bisogno di una spalla su cui piangere, io di qualcuno per il quale non rischiavo di perdere la testa. Era un'amicizia perfetta. Questo era ancora l'incipit di Ossi di Luna, di Jonathan Caron. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 7, volume numero 1, indice, Sia, Canadians, Afterclang, Iron and Wine, Ball of Flame Shoot Fire, My Robot Friend, Bodies of Water, Time, Space, Repeat, Sunset Rubdown, White Denim, Shocking Pinks. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.